è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Tanti auguri a Berlusconi, caro Parenzo! Come sta? Bene, non c'è male, è il giorno del compleanno di Berlusconi e anche quello di Bersani, però. Il signor Bersani oggi compie gli anni, lo stesso giorno del presidente del Consiglio. Ma non siamo mica consiglio. Qui a spegnere le candeline. No, non spegniamo le candeline. Io prometto che oggi non parlerò, non dirò una sola parola contro Berlusconi. Ma non ci credo. Intanto senti Di Pietro questa mattina che tratta male il nostro amico Milan. Gli dice basta con questa storia che io aizzo la violenza. Andate a quel paese. Dovesse succedere questa violenza, lei non si sentirebbe, diciamo, anche responsabile di avere un po' aizzato gli animi, no? Ma non diciamo sciocchezze, lei lo sa, siccome lei è stupido, non è, se ne, credo che si stia diventando rosso di vergogna solo lei stessa. No, che è rosso di vergogna, le faccio una domanda. È una vergogna dire una cosa, immaginare una cosa di questo genere. Io non sto dicendo che voglio la violenza. Lanciare l'allarme per evitare che questo accade, mi venite a dire che mi devo sentire responsabile. Mi viene da dire a chi dice una cosa del genere, mandare a quel paese. Tante volte l'incoscienza è la strada della virtù. Beh, il passaggio più bello, al di là degli aspetti poi processuali o paraprocessuali dell'intervista ieri di La Vitola a Enrico Mentana, è sicuramente quello in cui lui dice la libertà è come la vita, una frase pronunciata anni fa da Craxi, appunto, La Vitola. Appunto. Vabbè, appunto che è? Appunto. Qual è il problema? Non ho capito. Bravi, uno non può rivendicare la sua amicizia con Craxi, qual è il problema? Bravi. Fai silenzio, La Vitola. Vai avanti, bravo. La libertà è come la vita, diceva qualcuno al quale io tenevo molto. Un po' da ridere, il ministro Carfagna questa mattina a Omnibus dice che Bagnasco si riferiva anche al caso Penati. Cioè la Carfagna da Omnibus? Sì, sì. Ah, buono. Parla di aria pesante che c'è dovunque, che c'è in politica, a tutti i livelli della politica, in tutti i partiti politici, comitati di affari, forse si riferiva anche alla vicenda sesso e al caso Penati. Un po' da ridere, devo dire la verità, un po' da ridere. La vicenda radicale, beh, se non commenti su nulla che sei venuto a fare, scusa. No, non posso commentare quello che dici. Non commento su Berlusconi, non dico nulla sulla Carfagna, non dico niente, non lo so, cioè. Ancora Di Pietro che ci va giù duro, è un errore mettere i radicali in Parlamento, sapete che c'è stato il caso dei radicali che non si sono presentati, non hanno votato e hanno alzato i cartelli amnistia alla Camera durante il voto per la sfiducia al ministro Romano, errore mettere i radicali in Parlamento. I radicali portano avanti una loro battaglia libertaria per cui si può fare di tutto e di più, si può fumare spinelli, si può inveire contro il Padre Eterno, si deve abolire le carceri, eccetera. È un modo di vivere, a mio avviso, inconcepibile in una democrazia occidentale, in uno Stato di diritto. L'errore è stato quello, e non l'ho certo fatto io, l'errore è stato quello di dargli uno spazio, una voce, uno scranno per poter portare avanti queste loro aspirazioni. Beh, sostanzialmente qui Di Pietro dice che i radicali sono fuori dallo Stato di diritto, inconcepibili in uno Stato di diritto. Perché vogliono abolire le carceri, fumarsi le carceri. Che non è vero poi abolire però, le carceri. No, però è un mondo meraviglioso. Cioè, ma è io non so se sia un mondo meraviglioso, ma Di Pietro insomma che dice ai radicali non siete nello Stato di diritto, siete fuori dalla democrazia, mi sembra una cosa folle. Comunque, 800 24 00 24, questo è solo l'antipasto, ma l'ospite del giorno, diciamo il personaggio del giorno inevitabilmente, è il signor Santo Versace. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Caro amico, come sta? Bene, voi? Eh beh, ce la caviamo, siamo qui, eccetera. Senta, lei è uscito oggi dal gruppo del PDL, ha abbandonato Berlusconi e ha aderito al gruppo misto. Senta, Versace, ma quante persone la seguiranno secondo lei? Ma questo non lo posso dire. Come non lo può dire? Lo deve dire. No, non c'ho su questo argomento, signori, ognuno è libero e padrone di se stesso, quindi... ci penseranno e decideranno. Ma quanti lo faranno secondo lei? Non lo so, guardi, non faccio calcoli, non faccio preventivi. Ma mi sembra un po' abbattuto, che è successo? Ha parlato con Berlusconi? No, non sono abbattuto per niente. No, è bello carico, che cioè si sente un po' sì, liberato? Carico d'energia. Si sente liberato? Si sente un po' liberato da un peso? Ma mi se la responsabilità c'è sempre, non è che cambia la responsabilità. Però chiaramente a questo punto non ho più sono carico di energia e mi sento più libero in tutti i Si sente più libero. Prima si sentiva un po' in catene, più leggero. No, in catene, però impegni, situazioni, disciplina di schieramento, essere di parte non mi è mai piaciuto. Mi sento più libero, insomma. Ma non la facevano lavorare, non le facevano fare nulla. No, io ho lavorato moltissimo. No, dico, non le davano retta, non le davano retta le sue. Ma il discorso importante che è venuto fuori è che il PDL non ha bisogno di una persona come me. Cioè? Mi sono reso conto che loro non hanno bisogno di me, quindi chiaramente. E di chi hanno bisogno? E di chi hanno bisogno? Solo di chi dice sì. Ma probabilmente si sono autosufficienti, si sentono abbastanza in Con chi sta parlando, Versace? Chi sta ascoltando? Sento una voce in sottofondo, chi c'è? No, non c'è nessuna voce in sottofondo. E che ne so, c'è una voce in sottofondo, come no? Mica ce la sentiamo, non è mica un problema, basta. Qui è una casa aperta, una casa trasparente, si può dire tutto. No, sono in mezzo, ci sono altre persone, adesso mi allontano un attimo. Si allontani un attimo, così sentiamo meglio, si sente anche più libero di parlare. No, voglio dire, Berlusconi si circonda solo di persone che dicono sì, questo è il punto. No, non è questo. Ma come no? A me non è stato permesso di lavorare come avrei voluto lavorare, chiaramente. Io penso di poter dare un grosso contributo in qualunque situazione. Ho chiesto per la ripropo, ho parlato anche con Berlusconi, ho parlato anche con gli altri, chiaramente non hanno bisogno di me. A questo punto mi sono preso la mia libertà. Ma Berlusconi che le ha detto? No, guardi, con Berlusconi nelle ultime settimane non ci ho parlato. E come mai? Non c'è stata occasione. Ma Berlusconi? Non l'ho cercata. Ma parla con tutti Berlusconi? Sì, parlerà con tutti, ma io non l'ho cercato, non ho cercato più nessuno quando ho visto che chiaramente tutte le chiacchiere erano tanti, fatti pochi. Ma scusi, che cos'è? Qual è stata la goccia, come si dice, che ha fatto traboccare il vaso? Mi dico, c'è stato un episodio? C'è tutta una situazione in evoluzione, tutta questa situazione che si è visto, che si è sentito. Cosa? Tutti i fatti che sono accaduti. Ma c'è stata una goccia ma che ha fatto. Che la imbarazza di cioè, più che cos'è che la. C'è anche lo scontro fra il primo ministro e il ministro dell'economia, fra le tante cose. C'è il discorso come abbiamo affrontato sempre in ritardo i discorsi dei provvedimenti economici. Che chiaramente io, se lei va a guardare sul mio sito www.santoversace.net, trovo un bellissimo articolo del 1° maggio 2010 dove annunciavo tutto quello che sarebbe accaduto e che poi ci siamo ritrovati con 15 mesi di ritardo per affrontare la situazione. Questo lo sappiamo perché è stato spesso nostro ospite Versace, però c'è stato un episodio che le ha fatto dire basta, che ne so, un'intercettazione che ha letto, una frase di Berlusconi. Tanti fattori, tanto per cominciare ci sono tutti i miei amici dall'estero che mi hanno tempestato, mi hanno fatto riflettere su tante cose. Che le dicevano dall'estero? Ma mi dicevano chiaramente, Santo, come stai, come fai a sopportare queste robe e tutto il resto? Cioè, Santo, in un paese, negli altri paesi europei o in America una roba del genere sarebbe già superata e in molti casi questa situazione sarebbe chiusa e superata politicamente. Cioè con le dimissioni di Berlusconi? Ma sai, ci sono momenti in cui anche il caso Romano è stato l'ultimo, perché quando c'è un ministro che viene inquisito e non sente il dovere di fare un passo indietro, e si mette la fine, diciamo così, no, a questo punto basta. Questo perché punto basta. Romano può essere anche la persona più onesta del mondo, ma c'è una magistratura in questo momento, fai un passo indietro, tranquillo, difenditi, poi ritorni. Ma lei lo sa, quando si è in battaglia si combatte, caro Versace. Berlusconi, l'opposizione fa una mozione di sfiducia e Berlusconi combatte, lei tradisce, secondo Berlusconi. Romano, Romano deve essere lui a avere la sensibilità di fare un passo indietro, come lo fece Scajola a suo tempo. Senta, ma dall'estero che le dicono i suoi amici? Che le dicono? Che la situazione è imbarazzante? Chiaramente noi che viaggiamo, che tutto il resto, in questo momento l'immagine d'Italia non è molto bella da vedere vista dall'estero. Diciamo la verità, Versace, anche secondo lei Berlusconi ormai è un tappo, è un ostacolo, Berlusconi è un imprenditore straordinario, una grande persona, ha impedito a Occhetto e agli altri di prendere il governo e quindi ha fatto una grande opera meritoria. Però è tutto finito, lo dica. Secondo me lui stesso dovrebbe capire che è il momento anche di agevolare il centrodestra a rigenerarsi. Dunque dovrebbe fare un passo indietro. Del centrodestra. Dovrebbe fare un passo indietro. Dovrebbe creare le condizioni perché si vada avanti. e dunque fare un passo indietro. Versace, altrimenti ha detto lei, io non commento. Ma come non commenta? Ma mi pare evidente dal suo ragionamento. Ma che mi fa il paraculo, Versace, su. Non faccio. No, non faccio il paraculo, non l'ho mai fatto. Appunto, ma dico. È chiaro, è evidente, è inutile ripeterlo, l'avete detto molto bene. Appunto. Condivido. Condivido. No, ma ripetita Juventus, amico mio, qui. Cioè, lo dica Berlusconi, caro Berlusconi, ti voglio ancora bene, ma fai un passo indietro, lo dica. Ma sì, anche perché potrebbe godersi meglio la vita. Ma glielo dica, troppo. Glielo dica. Glielo dica lei. Glielo dica lei. Caro Presidente, è il momento di godersi la vita. E le donne? Faccia un passo indietro. E le donne? Quello non penso che gli siano mai mancate. Ma anche quello la imbarazza, anche questa questione delle donne? No, io non mi imbarazzo mai per niente, però dico che se uno ha un ruolo pubblico di questo livello, chiaramente la vita privata è importante che sia un esempio per tutti. E dunque anche in quello ha sbagliato, insomma. Diciamo che non ha fatto bene. Non ha fatto bene. Vabbè, lei prima o poi questa diplomazia, già per carità, è sempre uno che parla in maniera schietta, Però insomma. No, io parlo sempre in maniera schietta e che si capisce perfettamente, parlo un linguaggio che si capisce facilmente. Sua sorella recentemente ha detto che quello che sta facendo Berlusconi alle donne è terribile. Lei condivide? Donatella si è espressa in maniera molto chiara e ci siamo parlati e sa che io condivido la sua posizione. Dunque lei condivide perfettamente. Cioè con le donne Berlusconi con le donne si comporta malissimo. La posizione di Donatella la condivide in pieno, anche l'Anna Wintour ha parlato, ci siamo visti anche con Anna Wintour lì alla sfilata di Versace, ho visto la Franca Sozzani, tutti quanti, e sono tutte quante veramente preoccupate di questa situazione, di quello che proiettiamo all'estero. Scusi, ma perché dice che Berlusconi, che fa le donne di male Berlusconi? Che fa? Non lo so, voi lo sapete. No, che fa di male? No. Perché lei dice che sua sorella c'ha ragione, ma che fa di male? Diciamo che c'è un discorso che si compare una figura in questo momento, da quello che appare c'è una figura dell'immagine femminile degradata in maniera volgare. Per colpa di Berlusconi? Punto, ma diciamo che contribuisce enormemente il Presidente. Ha contribuito moltissimo a questo. Traffico, torniamo subito. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore. E siamo qui, caro Parenzo, con l'uomo del giorno, con Santo Versace, approdato al gruppo misto. Dopo il gruppo misto che c'è, signor Versace? No, adesso con il gruppo, arrivato al gruppo misto, io sto tranquillo, lavoro per il paese, lavoro con gli altri e cerco di aiutare gli altri a rigenerare la politica. Chi è il futuro dell'Italia? Chi vede come futuro leader? Montezemolo? Montezemolo, chi vede come futuro? Chi è che può salvare l'Italia? L'Italia la salvano tutti gli italiani che lavorano. No, ma come personalità politica, chi vede? Ma guarda, il discorso non è una persona che salva l'Italia, è una rigenerazione della politica salva l'Italia. Noi dobbiamo tornare su quell'argomento che voi conoscete bene, che noi dobbiamo fare una lotta alla corruzione feroce. Fare una lotta alla corruzione feroce significa far uscire dalla politica e dalle istituzioni tutti quelli che non hanno rispetto del pubblico denaro e del pubblico interesse. Bravo. E questo è il problema di base, quindi non è una persona che rigenera, non è che facciamo, non cerchiamo né Mussolini né Hitler né Stalin. No, quello per fortuna interessa. No, quello per fortuna nessuno dei tre ci interessa, né Stalin né Mussolini né Hitler. Sì, ma chi le piace di più? A chi si sente più vicino? Oddio, questo attacca con la lista. Verdini, Brancher, l'ascolto. Romano. Verdini, Brancher, è Parenzo che fa la sua solita lista dei reprobi, la sua lista dei reprobi. Milanese. Io vedo persone di grande qualità anche dentro il Parlamento. Quindi ce ne sono anche dentro il Parlamento, nei vari schieramenti. Cioè, ma a chi si sente più vicino in questo momento? Una persona a cui si sente più vicino? Se scegliere una persona fuori dal Parlamento, mi piace molto Mario Monti come persona di grande qualità, che ha dimostrato anche nei 10 anni che sta nel Parlamento? E nel Parlamento? Se devo scegliere il Parlamento, persone che mi piacciono moltissimo sono due in particolare, Pier Ferdinando Casini e Gianfranco Fini. Dunque lei aderirà al terzo polo fra poco? Questo qui io voglio lavorare perché il terzo polo sia veramente un polo di rivoluzionari, di rigenerazione della politica. E quando è che aderisce a questo terzo polo allora? Va breve. Io non ho problemi di adesione a niente, io aderisco al Parlamento italiano e lavoro per i cittadini italiani. Però lavorerà per il terzo polo, in particolare perché io voglio lavorare per una rigenerazione della politica, dove praticamente la politica non aspetti la magistratura per espellere quelli che non hanno politica. Sul territorio si sa perfettamente chi non deve far politica. Se aspettiamo la magistratura potremmo avere anche un criminale presidente del Consiglio. Se aspettiamo la magistratura potremmo avere anche persone sbagliate. Un criminale presidente del Consiglio? Ma non c'è un riferimento a Berlusconi, no? No, assolutamente no. Berlusconi lo stimo moltissimo come imprenditore e come tutto. Cosentino, Milanese, oddio mio, questa Bertolaso, mamma mia, mamma mia, attacca questa lista, attacca questa lista. Scusa se dimentico qualcuno. Scusi un attimo, come vabbè, ma voglio dire al ragazzo che sta parlando, si ricordi di Penati? Si ricordi che Penati è la punta dell'iceberg della corruzione a sinistra, non è un caso isolato. E chi è la punta dell'iceberg? Giù chi c'è? Eh beh, tu ricordatevi l'operazione della banca 121, la banca del Salento, che comprò il Monte dei Paschi, che valeva zero e fu comprata per i 1.000 e 1.000. Senta, Versace, una cosa, ma... la distruzione di Telecom, ne ce n'è di cose da raccontare. I consiglieri di sinistra, i consiglieri di Berlusconi, come sono? Mi dia una definizione dei consiglieri di Berlusconi. Ma non lo so chi che lo consiglia, certamente lo hanno consigliato male in molte occasioni. Ma sono gente che, quelle, le persone più vicine a Berlusconi sono come? Gente che dice solo sì, come li possiamo definire? Questo non lo so perché non ho partecipato a riunioni di lavoro di Berlusconi, non ho avuto questo piacere. Dunque non è stato mai invitato a nulla a riunioni di lavoro? No, ho avuto inviti personali, abbiamo fatto delle cene a Villa Gernetto, un paio di cene. Però sì, roba così. Abbiamo avuto sì, tutte robe formali, tutto il resto, abbiamo parlato anche a quattro occhi con lui almeno 4-5 volte, però alla fine non ho mai partecipato a riunioni di consiglio consistenti dove veramente ci si confrontava e ci si scontrava anche. Dunque l'hanno tenuta ai margini da tutto, vabbè, che vuole fare? Ai margini insomma non no, ai margini del partito, entrare io. No. Ma nel partito probabilmente non hanno bisogno di me, mi sono reso conto che possono fare a meno di me e quindi sono andato tranquillo al gruppo misto. Ma senta, ma sto PDL esiste oppure è una roba finta? Ma il PDL esiste, c'è tanta bellissima gente dentro il PDL, se fosse organizzato è un partito che può superare il 40%, fossi io segretario organizzativo accanto ad Alfano, con libertà di operazione questo partito sarebbe il primo partito italiano, ma alla grande, quindi lei a fare maggioranza che... da solo. Senta, ma lei aspetta che Berlusconi se ne vada via e poi torna nel PDL con Alfano. Questo no, non farà. Ho detto questo io, queste sono supposizioni. Ma potrebbe, lei potrebbe tornare nel PDL? Ma un PDL rigenerato, che sia un vero partito dove praticamente la gente si possa esprimere e tutti possono lavorare. Il PDL è importante. Ma chi è in mano oggi il PDL? A chi è in mano il PDL? A questo qui dovrebbe essere... A chi è in mano? Diciamo che in questo momento... Chi è che andrebbe mandato via? Versace, diciamo la verità. Io non mando via nessuno. No, secondo lei... Perché non ho questo potere di farlo. Vabbè, insomma, chi la segue? Però Versace, ci faccio un nome di una persona che è pronta a seguire a seguirla. Cioè, non in privato. Faccio nomi perché non è corretto fare nomi di terzi. Però in privato, lei lo sa bene, in privato tutti quanti dicono basta Berlusconi, importante, si deve dimettere, poi nessuno, nessuno lo dice in maniera esplicita come ha fatto lei. In privato, se tutti quelli che lo dicono in privato lo dicessero in pubblico, avremmo già un'altra maggioranza in Parlamento. Addirittura? Sì. Se tutti quanti è roba da male. Cioè non lo sopporta nessuno. Cioè non lo sopporta più nessuno ormai. No, sopportare tutti vogliono bene a Berlusconi, politicamente quelli del PDL. Però all'uomo Berlusconi al premier che ha veramente cambiato la politica italiana, ha fermato Occhetto e ha bloccato la sinistra in certi momenti. E vabbè. Certamente oggi tutti quanti vorremmo che Berlusconi si godesse la vita. Tutti quanti, cioè moltissime persone moltissime vorremmo che Berlusconi si godesse la vita e si togliesse queste preoccupazioni. Va bene, caro Versace, che le viva devo dire? Viva Silvio Berlusconi, cittadino, grande imprenditore e cittadino privato. Cittadino privato, basta Presidente del Consiglio. Ma direi che è il momento di passare la mano. Di passare la mano. Senta, ma ecco. Che consiglia Berlusconi? L'isoletta? No, gli consiglio di vivere e di fare tutte le cose più belle che lui desidera. Vabbè, ma l'isoletta mica è male, eh. Cioè, non è le Bermuda sono bellissime, c'è una villa bellissima le Bermuda. Appunto, gli consiglia quello, no? No, faccia quello che vuole lui. Ma chi è l'anima nera nel PDL? L'anima nera chi è? Chi è il... Non lo so, guardi, non conosco anime nere perché non ho avuto questo piacere. Sicuramente ce ne sarà qualcuno, perché se abbiamo rotto il PDL cacciando Fini, quello è stato veramente un momento vergognoso. Un momento veramente che mi ha amareggiato moltissimo. Senta, come... il discorso vero è che sono molto amareggiato e molto del fatto di aver dovuto lasciare il PDL. Lo so, sono forte, ma mi è molto dispiaciuto, è stato un grande dispiacere per me. Abbracci Berlusconi, allora dio un abbraccio. Io a Berlusconi faccio tanti auguri, un grande abbraccio e che abbia tutte le soddisfazioni possibili alla vita. Vabbè. Però la delusa proprio, eh? La delusa, eh? Ma diciamo che oggi come oggi tutte le cose si devono fare con 18 mesi di anticipo e alcune riforme potrebbero essere... Quanto l'ha delusa? Da 1 a 100, quanto l'ha delusa Berlusconi? Da 1 ragazzi, lasciamo stare, l'abbiamo già detto la volta scorsa, da 1 a 10. Da 1 personalmente, a 10. Per quanto riguarda me come deputato Santo Versace, chiamato a fare il capolista in Calabria, invitato a far politica dentro il PDL, sono molto deluso. Vabbè. Vabbè, che facciamo? Quando è che niente, che possiamo fare? Possiamo solo battaglia per rigenerare la politica. No, possiamo indirizzare questi auguri, manderemo l'audio a Berlusconi, Versace. Auguri, buon compleanno. Grazie. A presto. Grazie a voi. A presto, caro Versace. Giornale Radio. Eccoci, eccoci qui con David Parenzo in collegamento da Roma, il sottoscritto in collegamento da Milano, separati alla nascita, direi, no? Grazie. Parenzo. Buonasera a lei, direttorissimo, e ai suoi radioascoltatori. Ma com'è che sei così abbattuto questa sera? Uso la formalità dell'eloquio radiofonico. Sei abbattuto, i tuoi soliti editorialini, le tue invettive, sei un po'... risveglia un po' questi ascoltatori che se non sentono la tua voce squillante, pungente, adesso feroce, preparati per qualcosa. Cambieranno molte cose, cari radioascoltatori. Ma dove cambieranno molte cose? Dove? In Italia, molte, solo perché molte. Hai sentito Versace che va via dal gruppo del PDL per radire il gruppo misto? Non sarà l'unico! Dice che il suo punto di riferimento sono Fini e Casini? Fini e Casini? È la rinascita dell'Italia, l'Italia per bene, cari amici. Ma di che stai parlando? Vabbè, ma no, non sei in forma stasera. Titoli del TG3 by Scilipoti. Va ora in onda il TG3 di Bersani. Maggioranza sempre divisa su Banca Italia, nuovo vertice la prossima settimana e spunta l'ipotesi di un terzo candidato. Ennesima sconfitta del governo alla Camera, Gianni Letta per Berlusconi, giornate turbolente, Santo Versace lascia il gruppo del PDL. Decreto sviluppo, immobili di Stato in vendita per recuperare 25-30 miliardi, una riforma strutturale per ridurre il debito, annuncia Tremonti. La norma Mazzablock non deve passare, il mondo del web in piazza contro la legge sulle intercettazioni in discussione alla Camera la prossima settimana. Sì del Parlamento tedesco al fondo salva stati, una vittoria della Merkel e una boccata d'ossigeno per la Grecia e per l'euro. Il sindaco di Parma formalizza le sue dimissioni dopo gli scandali tangenti, la città ora pensa a 600 milioni di euro di buco nel bilancio comunale. Dopo le decine di parodie sul web per la gaffe sul cosiddetto tunnel dei neutrini, si dimette il portavoce del ministro dell'istruzione. Così ti svegli, eh? Eppure sai che non va la vita come un ragazzo mio. Ci son volpi di quale stofanti di la mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Con tanti galli che cantano. Finalmente ti riconosco. Troppe galline rispondono e se i piccioni spariscono tutte le papere piangono. Tutti insieme, via le mani dal volante. Bene, Iva Zanicchi ha cantato per noi l'altro giorno una canzone di... non dico di addio, ma insomma ci ha spiegato così a modo suo il Berlusconi al tramonto. La notte dell'addio, quando la sarà? La notte dell'addio, il buio dentro e intorno, poi quando vuole Dio si accende un nuovo giorno. La nostra casa vuota, il sole inonderà, ma tu non ci sarai e tu mi mancherai. Addio. Dietro il cespuglio che aspetta là dove passerai. Non andare finché il gallo che canta non ci casca mai. E poi, sempre da Strasburgo, il signor Gabriele Albertini che racconta, se ce l'abbiamo, ma immagino di sì, la storia della patonza che deve girare. Mi trovavo ad Arcore a colazione, si tratta di cose di forse una decina d'anni fa, e mentre sono a colazione telefona una persona che capisco essere l'avvocato Agnelli, fanno un breve discorso, finito questo incontro il presidente Berlusconi parla dell'avvocato Agnelli molto simpaticamente, come una persona cordialissima, non solo lodando le sue qualità imprenditoriali ma anche la sua simpatia personale, e poi arriva al particolare un po' boccaccesco. Arriviamo al dunque, Albertini, arriviamo al dunque. Tra uomini, insomma, avevano scoperto che insieme, e forse nello stesso periodo, ma all'insaputa evidentemente l'uno dell'altro, avevano goduto delle grazie di una signora. E dunque? E che succede, Albertini? Che succede allora? No, forse nello stesso momento, ma non nella stessa circostanza. Ma sono dettagli che non ci interessano. Albertini, venga al dunque. Cosa è successo a quel punto? In quel frangente, però... dopo venuti a conoscenza di questa bis in idem, diciamo anche le citazioni in latino, dica davvero, signore, un attimo pensoso, uno sguardo nel vuoto, e poi la frase che adesso riportiamo, che però venne attribuita da Albertini su Berlusconi all'avvocato Agnelli, un attimo di riflessione, dice: e beh, la patuzza deve girare. Attenti al matto! Nuovo mito, il sindaco di Catena Nuova, provincia di Enna, Ubaldo Biondi, Aldo Ubaldo Biondi. Che ha fatto? Più pilu per tutti, albanese, ti ricordi? Sì. Come no? Uguale, senti. Gettola qualunque. Viva Catena Nuova! Viva San Prospero! Grazie! Grazie a Povia! Grazie ancora! E viva Pilu, dice lui! Ma stavolta è tutto vero, è tutto vero, è tutto vero. Sindaco di Catena Nuova, sindaco di Catena Nuova. Bisognerebbe farla finita. Ma che c'entra adesso farla? Ma se non ci fossero questi, che cosa faremmo? Saremmo morti, finiti. Certo, figuriamoci. L'ala cattolica del Partito Democratico, Fioroni, i radicali non sono praticabili. Come praticabili? Senti, senti. Ma perché? I radicali hanno una peculiarità e una caratteristica nell'identificare la loro azione politica, che a me li rende possibilmente non praticabili e non agibili né politicamente né in modo condivisibile delle relazioni. Va bene, 800 24 00 24, più tardi la ricetta del signor Pirillo, eurodeputato del Partito Democratico, a Berlusconi. Basta con i farmaci, basta con le farmacie, basta con le pilloline, serviti di una cosa naturale, naturale insomma, naturale non troppo, comunque di una cosa genuina, cioè dire un salame che si chiama nduja, che è molto afrodisiaco. Io l'ho provato, non mi ha fatto nulla, ma che volete fare? C'è gente convinta, c'è gente che è convinta che invece serva. Mario da Grosseto, buonasera. Poi Domenico da Bari, Salvatore, provincia di Palermo, e Marco da Roma. Noi andiamo molto bene, Mario, stanchi ma vivi, dica. Grazie di dimostrarci questa tela di ragno che incombe su di noi con questi graziosi personaggi. Che, quale tela di ragno incombe? Bella, scusi. No, voglio dire il teatrino della politica sopra di noi, più che una casta. La mia impressione è una tela di ragno in cui si rimane appiccicati e non si riesce a uscirne. Dunque? No, ma la cosa che volevo dire era, mi riferivo a quella dichiarazione che ha fatto il buon Di Pietro circa la violenza prodotta dallo Stato. No? A me non mi sembra così proprio fuori di testa una dichiarazione del genere. Cioè, nel senso che essendoci tutta una serie di vessazioni ed essendoci poi una diciamo un'opposizione che non funziona bene come valvola di reazione. Allora? Azioni di personaggi un pochino esaltati che non vedono altra via di soluzione, che pensano con un gesto anarcoide di soddisfare un loro bisogno di ipotetica giustizia, non è così poi folle. No, scusi Mario, guardi, in linea ipotetica tutto è possibile, cioè, i pazzi ci sono sempre, ma non è una situazione esplosiva a livello, come dire, sociale, di violenza a livello sociale. No, siamo in Sud America. Ma no, ma nemmeno in Grecia, cioè, dove comunque la violenza è prodotta dagli anarchici che ci sono lì da anni, cioè, e che hanno sempre prodotto violenza. La ringrazio. Marco da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Io... Lei, sì. Devo dire che purtroppo io non apprezzo questo senso unico contro Berlusconi, ma non sui contenuti, ma sulla persona. Sempre, costantemente, anche voi in prima fila, anche se qualche traccia ogni tanto. Sì, abbassi la radio, per favore. Quante volte lo devo dire, Marco? Chiuda la radio. No, non capisco. Va bene, ecco, guarda. Però secondo me si continua a attaccare sul piano personale, che non sta bene, non sta bene neanche se Berlusconi. Ma non sta poi? Bene, cosa vuol dire non sta poi bene? Poi noi dobbiamo, no, vuol dire che non sta bene, lo sa benissimo Parenzo. Ma cosa vuol dire che non sta bene? Non siamo mica a una cosa, a un pranzo. Non si attacca una persona sul piano personale. Va bene, non siamo ma qual è il piano personale? Ma lui diffama, lui è la sua abitudine, gli piace. Ma chi? Diffamare. Ma chi? Giustificare. Qualsiasi cosa. Ma chi, cioè, dice l'avversario lei? L'avversario politico si diffama, ma chi è che sta diffamando? Chi è che sta diffamando? Parenzo diffama. È una cosa gravissima. Lei sta dicendo una cosa di una gravità inaudita. Esattamente. Vabbè, Marco, insomma, a parte Parenzo, che vuole dire? Qual è il suo? Io vorrei dire che noi dobbiamo essere grati a Berlusconi, sì, per la stabilità che noi ci sognavamo anni fa. Noi vi ricordate, voi, anche se ovviamente siete giovani, ma vi ricordate senz'altro che il grande problema dell'Italia era che non c'era una stabilità politica. Berlusconi ha portato una grande stabilità. Va bene, però, politica. Marco, adesso andiamo al succo del suo intervento. Qual è? Il succo è questo. Berlusconi ha fatto bene alla stabilità politica del paese. Benissimo, grazie, Marco. Certo, certo. Salvatore della provincia di Palermo, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Telefono da Termini Imerese, sono Salvatore Sansone. Questo l'abbiamo capito, provincia di Palermo, Salvatore, bastava anche questo. Volevo dire semplicemente questo: io ho apprezzato la decisione dei radicali di non partecipare al voto di sfiducia contro Romano, per due motivi veramente. Sì. Uno è perché io ritengo che contro Romano c'erano ben pochi elementi. Nel senso che si faceva riferimento addirittura al numero di telefono che un mafioso avrebbe. Vabbè, adesso non scendiamo nel dettaglio, Salvatore, perché secondo lei hanno fatto bene i radicali? I radicali in realtà. Perché giustamente loro hanno detto: noi ne approfittiamo per mandare avanti questa battaglia dell'amnistia, per sollecitare due schieramenti a interessarsi, anche per cercare di far filtrare la nostra battaglia. Vabbè, questo qua è evidente, non è che ce lo deve raccontare lei, è evidente che l'hanno fatto per dare pubblicità e per dare, come dire, per mettere sul piatto la questione dell'amnistia. A proposito dei radicali, non le volevo chiedere comunque un parere su Pannella, su cui una volta Roberto Gervaso disse che Pannella è un misto di Gandhi, San Francesco d'Assisi e Savonarola. Di Gandhi dice la non violenza, il coraggio e l'amore per la disobbedienza civile. Di San Francesco d'Assisi l'umiltà, la fratellanza, l'amore verso l'acqua, per fratello fuoco e per la natura in generale. Poi? E di Savonarola la fuoco popolare e la moralità pubblica. Bene, Salvatore, grazie, la borsa. Siamo qui 19:36 800 24 00 24, la Zanzara. Andiamo subito a Salvatore, provincia di Milano. Salvatore, dica. Pronto, buonasera. Dica. Buonasera a tutti. Volevo dire che l'onorevole Santoversace si è accorto un po' tardi di doversi dimettere da questo governo. Per carità. Perché si è accorto un po' tardi? Ha fatto una scelta perché evidentemente non ne poteva più, non gli danno retta, non l'ascoltano, che ne so, lo sa lui. Ognuno si accorge quando si accorge. Dopo che ha votato di tutto. Ha votato di tutto, ha votato delle cose secondo coscienza, immagino, oppure perché glielo diceva il partito, oppure non lo so. A un certo punto si è rotto le scatole di Berlusconi e se n'è andato. Perché uno ci dice ci poteva pensare prima? Che significa ci poteva pensare prima? Io penso che una persona, prima di dover rendere conto al partito di alcune azioni, deve rendere conto agli elettori di alcune cose, giusto? Sì, sì, ma in questo caso quali elettori, che ci sono le liste bloccate? Capisco, però comunque ci sono degli elettori. Sei lì per rappresentare non un partito, ma sei lì per rappresentare il popolo. Vabbè, comunque, guardi, scriva a Santoversace e gli chieda conto di questo. Perché non ci ha pensato prima ad abbandonare Berlusconi? Ma effettivamente, mai come in questo momento, un deputato deve solo rendere conto al proprio padrone che l'ha messo in lista. È esattamente il contrario. Perché la legge elettorale... No, assolutamente no, mi rifiuto purtroppo di purtroppo è esattamente così. Il contrario. Ma non è sempre così. Grazie, Salvatore. Con noi Marco Pannella, buonasera! Pannella! Chi è? Pannella! Parenzo, che fai? Subito lisci il pelo, come al solito. Io sono un fan del signor Pannella. Vabbè, Pannella, qui abbiamo i fan. Abbiamo i fan. Signor Parenzo, un suo fan. Che devo fare? Come andiamo? Ciao, Giuseppe. Ciao, ciao. Come andiamo, Marco? Una favola. Come tutti, come gli ascoltatori, come te, come io, siamo in un mondo di favola proprio. Come di favola? In che senso? Di favola o di favola? Di favola, di favola, di favola, di favola. Senti, ti faccio ascoltare per metterti subito così di buon umore. di buon umore. Quello che ha detto questa mattina Di Pietro sui radicali e su questa scelta di non partecipare al voto su Romano, ma ne ha dette di tutti i colori in realtà. Te lo faccio ascoltare così ti metti di buon umore. Di Pietro, via. I radicali portano avanti una loro battaglia libertaria per cui si può fare di tutto e di più, si può fumare spinelli, si può inveire contro il Padre Eterno, si deve abolire le carceri, eccetera. È un modo di vivere, a mio avviso, inconcepibile in una democrazia occidentale, in uno Stato di diritto. L'errore è stato quello, e non l'ho certo fatto io, l'errore è stato quello di dargli uno spazio, una voce e uno scranno per poter portare avanti queste loro aspirazioni. Non ho capito se siete alleati, Marco? Bella? Sì. Hai sentito, Marco? Sì, ho sentito. Dice che siete incompatibile con il modo di vita occidentale, con la democrazia. Che ne so. Vabbè, cioè, sarà. Guarda, io sono per gli Abruzzi e Molise. Sì. Lui è un molisano, ma contrariamente agli altri si è montato la testa. E lui poi si interessa più del mondo delle manette che di quello, hai capito, che di lo Stato di diritto, devo dire, non è proprio il suo forte, ma insomma devo dire alleati, Marco, però. Però è un contadino delle nostre parti che ha dovuto farsi strada con i gomiti, non era figlio di un procuratore generale, eccetera. Ha cercato di copiarci sempre in tutto e devo dire gli manca proprio sapere che cos'è lo Stato di diritto e cosa sono i diritti civili, ma insomma cioè nel senso alla fine siete alleati, però che... ma che alleati? Come no? Sì. Voi siete nel gruppo PD. Allora è bene che dichiariamo una idea. Sì. Dichiariamo. La situazione è questa: quando si sono presentate le elezioni anticipate, sì, noi eravamo entrati creando noi le condizioni per entrare per il governo Prodi, perché sì, perché l'Unione aveva avuto 1 milione di voti in meno di Berlusconi, sì, e la Rosa del Pugno ebbe 1 milione di voti, sì, vabbè, però. E 400.000 secondo i sondaggi da parte di elettori, altrimenti ma la sostanza, cioè la sostanza, ecco, è che voi siete stati eletti nel PD, alleati del PD e anche l'Italia dei Valori di Di Pietro. Momento, mi dispiace, noi siamo quindi entrati nel governo, sì, autonomamente. Poi quando questi hanno di fatto fatto fuori Prodi, perché sono loro che devono fare il nuovo grande partito, insomma quello che io chiamo Veltroni, insomma, sì, doveva fare il loft, quella roba là, Veltroni, sì. A un certo punto fecero cadere quel governo, sì, con Di Pietro che ministro di quel governo andava a tutte le televisioni, poi ci torneremo su questo, sì, per parlare contro l'indulto che veniva appoggiato sia da Prodi che da Berlusconi con, sì, Forza Italia, no? Con l'opposizione della Lega di Pietro, appunto, ma ci andava a parlare. Vabbè. Comunque a questo punto no, dico la verità, è questa: quando poi ci sono le nuove elezioni, sì, Veltroni, sì, e compagni, sì, scelgono contro di noi. E come contro di voi? Aspetta, sì, perché noi che avevamo la cosa della rosa nel pugno, sì, avevamo avuto il suo dato, lui nega a noi la possibilità di allearsi, di mettere il simbolo, vabbè, di mettere ecco, no, ma è tutto, perché il simbolo poi è tutto in elezione, cioè, no? D'accordo, e poi vabbè, voi entrate, aspetta. Abbiamo solo 10 minuti. Dopodiché a un certo punto invece lo danno la possibilità, avendo Di Pietro dichiarato, il Veltroni dicendo che lui poi sarebbe confluito nel PD. Sì, questo è vero, questo è vero. Punto, loro, poi se n'è sbattuto, non è confluito manco per niente nel PD, sì, ha fatto scusami, noi quindi radicali a questo punto loro dissero con i radicali non quello che facciamo Di Pietro. Se i radicali volessero, sì, possono candidarsi all'interno delle nostre, sì, questo l'ho capito bene, sì. E noi a questo punto loro speravano che noi, come i socialisti e gli ambientalisti, sì, li rispondessimo di no. E invece gli avete detto di sì. Gli ambientalisti presentarono le loro liste e purtroppo naturalmente ebbero... Per cui tu mi stai dicendo che in questo momento tu non sei alleato con Di Pietro? No, ti sto dicendo e ci arrivo. Sì. A questo punto loro, e non solo, per 10 giorni sì. cercarono di impedirsi di accettarlo. Per esempio. Sì, però no, Marco, scusami, però tu mi devi dire una cosa. Adesso la situazione qual è? No, ma io le premesse le so. Adesso la situazione qual è? No, voi... tu le premesse le sai, ma nessuno sa che loro misero. Una sera dissero, sì, i candidati Partito Democratico possono candidarsi da noi, ma Pannella no. Sì, questo lo so, certo, me lo ricordo, sì. No. Sì. Perché speravano che noi non accettassimo. E invece avete accettato lo stesso. Allora, noi abbiamo accettato sì. e da quel momento credo che noi abbiamo dimostrato di avere un'autonomia piena, tant'è sì. vero che non è la prima volta, ieri, dinanzi al fatto che questo poveraccio di PD sì. che cosa fa? Poveraccio. Fornisce costantemente alla maggioranza l'occasione di prendersi delle fiducie. Questo è vero? E ieri hanno fatto quello. Noi... Dunque un errore colossale presentare questa mozione di sfiducia, un errore colossale. Ma sì, ma, cioè, ma questi non è un errore. È l'ABC, è l'ABC. Ma non ha, ma che, ma no, ma questi sono epigoni di tutto, in quanto partito sono vuoti al centro. Vuoti. E vuoti, cioè è il vuoto di idee, di vedere. Ci sono, c'è Veltroni, Marco, scusa. C'è D'Alema, no, questo vorrei dirlo. C'è D'Alema sì. e Berlusconi, che sono coppia fissa ufficiale. Ma come coppia fissa ufficiale? Di che? Allora, ti dico, uno, quando ci sono state le elezioni del 2000 e prima... Cioè, no, però scusami Marco, io ti voglio chiedere una cosa. Allora mi chiedi come mai sono alleato, ti ricordo. Allora, Berlusconi... No, ma lascia perdere D'Alema, ti voglio chiedere una cosa. Berlusconi. A voi della vicenda della fiducia a Romano, ve ne fregava o no? Non ve ne fregava niente? Ieri. Ma noi non è che non si fregava niente, noi il problema era ancora maggiore. Al Senato... Cioè è più importante la questione dell'amnistia che quella questione... Scusami, della... magari ti faccio le domande tu e tu mi fai le risposte, perché no, se no... è la domanda questa qua, a voi viene fregava più dell'amnistia che della questione, cioè la questione della fiducia a Romano era una questione... A noi fregava sì. soprattutto una cosa. Cosa? Che in Italia... sul problema della giustizia, del carcere, sì. eccetera, abbiamo documentato al Presidente della Repubblica sì. e alla magistratura che tutto il sistema audiovisivo, Rai, eccetera, ha fatto una cosa, ha dedicato in questi ultimi 4 mesi sì. meno ascolti possibili al Paese di quanto non ne abbia dedicati a Avetrana. Ma ieri c'era detto, allora su, ieri c'era da discutere di Romano. Voi pensavate più importante mettere i cartelli con scritto amnistia che votare la sfiducia. Questo dillo, a me non me ne frega niente della fiducia o della sfiducia a Romano. No, io invece a me frega moltissimo, ma c'è una cosa più importante. Cioè, che avresti, come avresti votato? Ma roba da matti. Ti sto dicendo, l'intervista è mia, se no arrivederci e grazie. Ma come intervista tua? Ti sto chiedendo una cosa, Marco, scusami. Sì, ma io ti sto rispondendo, tu mi hai chiesto, poi col cazzo adesso stai scappando. Non sto scappando. Ma perché hai detto Berlusconi e D'Alema? Vabbè, ma adesso Berlusconi e D'Alema... È una domanda importantissima per gli ascoltatori. Benissimo. Perché allora devo dire questo. Come... che nel 2009, nel 1999 ma nel 99 vabbè comunque vabbè, arrivederci, no Marco un attimo solo Marco vabbè perché nel 99 no io gli voglio bene ma siamo nel 2011 vabbè ma è una coppia fissa Berlusconi D'Alema vabbè d'accordo richiamiamo dai che gli chiediamo scusa no vabbè se lo richiamiamo ma che no perché io gli voglio bene non so perché sei arrabbiato no vabbè ma è che se lo lascia briglia sciolta è finita questo è il punto no che a me dispiace che adesso partiva da D'Alema poi magari andava a Benedetto Croce poi vabbè Fabio da Milano buonasera Fabio richiamalo un attimo richiamiamo Pannella. Dica Fabio. Fabio, dica. Ah, buonasera. Buonasera, parli, dica. Buonasera, mi scusi, ero con un cliente. Stavamo proprio disquisendo sul Marco? Un attimo. Telefono di Pannella che non risponderà naturalmente. Abbiamo pronto? Marco? No, sei tu, sì, maledetto. Radicale. Maledetto, sei tu. Fabio, c'è sempre lei, sì. Pronto? Marco, sono per delle interviste. Lo so, siamo qui. E non ci sono per altro. No, ma siamo qui, se Marco. Hai naso. Hai terrore che io spieghi. Ma figurati se ho terrore. Ma che terrore? Ho detto che Berlusconi e Tarella sono soci sotto i punti di vista. Ma adesso sono soci, allora, anche adesso. No, ciao. Marco, sono soci anche adesso. Aspetta. Ma no. Il terrore è quello degli ascolti, non di Berlusconi e D'Alema. Ma che terrore? A me che me ne importa del terrore. Voglio capire se sono soci anche adesso, secondo lui. Vabbè, ma come vabbè, però scusa, poi... non è una questione così fondamentale sapere se oggi D'Alema e Berlusconi sono soci. Scusami, Ma no, ma magari è interessante, però insomma, sì, bisognerebbe dai, capire. Chiamalo, chiediamogli scusa, dai, facciamo. Ma no, ma adesso glielo richiamiamo. Sentiamo Fabio da Milano e poi lo chiamo. Fabio? Fabio? Come lotta, Sor Pannella? Sì, arrivo. Sì, allora dica però. Voce. Buonasera. Sì. Mi sentite? Sì, la sentiamo, dica. Sì, buonasera, scusate, ho appena lasciato. Dai, è la quarta. Ah, mi scusi. Ha ragione, ha ragione. Allora, niente, volevo solamente testimoniare. Io sono un tassista di Milano. Sì. Carico tante persone straniere. Sì. E, volevo testimoniare il fatto che l'Italia. Testimoniare oltretutto che l'Italia comunque in questo momento il livello politico, il livello dell'Italia agli occhi del mondo è di ridicolaggine assurda. Tutte le persone che mi salgono sul taxi, la prima cosa che fanno, le persone straniere di qualunque nazionalità, svedesi, americane, brasiliane, eccetera, ah, Berlusconi, e si mettono a ridere, mi prendono in giro, e questa è una cosa che mi dà un grande fastidio, perché l'Italia è fatta di grandi, brave persone, lavoratori, capaci, pensanti, e che cercano di fare il massimo per rappresentare l'Italia nel mondo. Va bene Fabio, va bene, lei ci dice che gli stranieri che salgono sul suo taxi ridono di Berlusconi, diciamo. Ridono nel nostro paese perché c'è Berlusconi, benissimo. Luca da Savona, buonasera. Pronto, buonasera. Dica. Volevo provare se era possibile in trasmissione un'idea che mi è venuta, che era quella se secondo voi poteva essere di interesse. Sì. Proporre la costituzione di un partito, che non vorrei assolutamente fare io, che mirasse esclusivamente a proporre un governo tecnico. Quindi in questo partito, se riuscisse a ottenere i voti necessari dalla prossima tornata elettorale. Un attimo solo Luca, un attimo, sto governo tecnico su di nuovo Pannella. Pronto? Radicali. Dai, che t'ho fregato, eh? No, non mai fregato, però sì. Sempre il numero di Marco Pannella, diretta alla Zanzara. Adesso non facciamolo più arrabbiare, però. E lo so, ma è del 99. No, vabbè, però ha ragione. Patto della crostata. È una questione politica. Da Lema Berlusconi. Ma non mi sembra che vada una braccetta adesso, poi. Però, magari sì, Se ci ascolti, Marco, rispondi, ti prego, Marco Pannella. Marco? No, ma si è arrabbiato. Si è arrabbiato, ho capito, ma non è che uno può fare le interviste chilometriche. No, ma gli vogliamo bene. Ma lo so, ma gli vogliamo bene, ma... Anche perché ha fatto tante battaglie. Su Di Pietro. Se non ci fosse stato Pannella in questo paese. Vabbè, adesso non cominciare a lisciare il pelo perché vuoi che risponda. Io sai che lo penso. Va bene, dove siamo? Luca da Savona, che vuole proporre? Su, Luca, per governo tecnico. Abbia pazienza, sì, d'accordo, lo dicono in tanti, governo tecnico, vabbè. No, ma io mi chiedevo, se un partito che riuscisse a raggiungere i numeri per entrare in Parlamento nella prossima parte elettorale, potrebbe, che proponesse solo il governo tecnico, potrebbe essere l'ago della bilancia per far sì che o si fa il governo tecnico oppure un governo dei due gruppi di maggioranza relativa si devono mettere insieme per fare un governo di larghe intese. Quindi penso che questo sia il bene del paese che ha necessità. È irrealizzabile, Luca, credo che in questo momento sia irrealizzabile. Alessio da Pescara, buonasera. Buonasera. Dica. Volevo ricollegarmi all'intervista poc'anzi che è avvenuta con Versace, no? Che oggi ha lasciato il PDL per confluire nel gruppo misto. Sì. Ecco, io pur essendo un elettore, diciamo, di centro-sinistra, quindi ritenendo la pagina di ieri una delle pagine più brutte, insomma, del nostro Parlamento, con la mancata sfiducia a un ministro indagato per concorso esterno, insomma, un'associazione mafiosa, ecco, non posso apprezzare quello che ha fatto Versace, cioè non essersi presentato ieri in aula per non dover votare contro i dettami di Berlusconi, insomma le indicazioni di partito. Credo che avrebbe fatto una figura ben migliore se si fosse presentato in aula, avesse espresso la sua intenzione di voto votando a favore della sfiducia. Sì. In questo modo non avrebbe fatto il gioco del cerchio bottismo, no? Un colpo alla boccia, al cerchio, uno alla botte, per accontentare i suoi gli amici imprenditori siciliani che lo pregavano di votare a favore della sfiducia e al tempo stesso, no? Non inimicarsi, non fare uno sgarbo al PDL. Ecco, secondo me sarebbe stato sicuramente un gesto di spessore politico, un gesto che avrebbe dato anche uno scossone al PDL, no? Ai suoi compagni di partito, no? Visto che lui dice che ci vuole una sterzata, eccetera. Ecco, lui doveva prendere voce. Cioè, secondo lei doveva intervenire, magari addirittura votare a favore della mozione di sfiducia. Beh, certo, Alessio, certo, un parlamentare libero, se lui si professa veramente un parlamentare libero, sì, però libero, ci sono anche avere vincoli di mandato, sì, deve avere vincoli di mandato. Alessio, è vero, lei ha ragione, però esistono anche in politica le arti della, come dire, no, della diplomazia. Si esce non con gesti eclatanti, si esce anche con altri metodi, da un partito per aderire in questo caso al gruppo misto, per cui insomma non ha partecipato al voto e, come lei sa, insomma, non partecipando al voto ha contribuito, anzi no, non ha contribuito, nel senso che poi il suo voto non ha pesato, però è come se avesse votato, è come se avesse votato a favore della mozione di sfiducia, in sostanza, non avendo raccolto l'ordine di partito. Abbiamo la pubblicità, poi torniamo con la Zanzara. 800 24 00 24. David da Siena, Giulio da Roma, che non è Parenzo, Massimo da Catania. Ci sentiamo tra poco. Siamo qui, 20 in punto, David Parenzo in collegamento da Roma, Giuseppe Cruciani qui dagli studi di Milano, la Zanzara sempre con voi, 800 24 00 24. Un attimo, sentiamo di nuovo Pannella. Allora, non ci casco. Perché nel 1976, quando tu... Non ci casco, lo fai bene Pannella, ma non ci casco. È sempre il numero di Marco Pannella che squilla. Stavolta si è arrabbiato. Voglio fare pace, ho capito, ma non è possibile. Ma no, ma non è possibile, cioè voglio dire, si deve ripristinare anche il fatto che uno ha l'autonomia di fare la domanda che vuole e anche di ricevere una risposta nei tempi. L'intervista è mia, bellissimo, quando hai detto l'intervista è mia. Sì, l'intervista è mia, ma di che stiamo parlando? Cioè, anche lui ha ragione, cioè l'intervista, cioè l'intervistato è lui. Ho capito, ma niente, vabbè. Raffaele, allora dica. Raffaele da Firenze. Raffaele? Niente, Giulio da Roma, buonasera. Buonasera a lei, ospiti. Intanto vorrei dire che sarebbe stato interessante finire di ascoltare Marco Pannella, perché probabilmente per capire oggi bisogna anche capire quello che è successo. Sì, ho capito, ma questo non è una trasmissione in cui si fanno i trattati di storia politica. Abbia pazienza, Giulio, su. No, però probabilmente allora sono fuori tema anch'io, perché vorrei dire che Berlusconi non si può dimettere attualmente per lo stesso motivo per cui è sceso in politica. Perché, scusi? Cioè, lui è sceso in politica perché con per la sua roba, no? Per garantire la sua roba, dice lei. Con Falonieri, l'ha detto anche lui, stava portando i registi in tribunale per il fallimento di Mediaset, perché ha perso completamente gli appoggi politici e i finanziamenti più o meno nascosti, eccetera. E quindi per questo motivo è sceso in politica, non ci raccontiamo le barzellette. Cioè, non è, ormai è storia vecchia. Vabbè, questa è storia, dunque. Ma è quello che è. Cioè, vabbè, il allora... E il personaggio è questo, quindi volevo dire innanzitutto questo qui. Vabbè, ma non è una novità questa qua. Il fallimento della roba sua. Il problema è che Berlusconi, siccome Mediaset non è sua, ma Mediaset è di Previti, Mediaset è di... Oddio mio, Giulio, abbia pazienza, però. Abbia pazienza, Giulio, Mediaset è di Previti, su. È un'azienda quotata. È un'azienda quotata, sono d'accordo. Vabbè, ma che vuole? Che vuole dire, Giulio? Cosa vuole dire? Mi spieghi voglio cosa... Voglio dire che purtroppo Berlusconi all'epoca avrebbe probabilmente fatto la fine di Calvi, purtroppo. Che oddio mio, fine di Calvi. Questa è la storia. Questa è la storia secondo lei, Giulio. Questa è la storia secondo lei. Abbia pazienza. Questa è la storia secondo il signor Giulio da Roma. Cioè, secondo il signor Giulio da Roma. Cioè, ho capito. Io la storia riscritta dal signor Giulio da Roma. Ma no, va bene, cioè Berlusconi poteva fare la fine di Calvi, soggettivamente tante se ne sono dette, sull'origine delle fortune di Berlusconi, sul perché è sceso in politica. L'altro giorno, anzi oggi, c'è un articolo anche molto bello di Massimo Mucchetti sul Corriere della Sera, che abbiamo letto in aereo insieme io e Parenzo, sul Berlusconi, la sua roba, il futuro di Mediaset, per carità. Ma addirittura poteva fare la fine di Calvi, questa mi sembra veramente, cioè siamo a livello di fantapolitica. Comunque purtroppo è così. No, ma che purtroppo è così, ma non è che purtroppo è così, da quello che si legge, da quello che si evince da determinate, ma non è così, ma non è così come dice lei, Giulio, non è che purtroppo è così e lei dice purtroppo è così ma nessuno lo dice, non è così, cioè siamo nel mondo della fantasia più assoluta. Non è che lei sta svelando il quarto segreto, il settimo segreto di Fatima e noi siamo, cioè a me fa impazzire questa cosa, purtroppo è così, poteva fare la fine di casa. La potenza di Mediaset non sta in Mediaset, sta ad esempio in Publitalia, nessuno parla mai del problema di Publitalia. Nessuno parla mai, ma sono anni enorme, che si parla, cioè, di queste cose. La maggiore potenza di Mediaset non è Mediaset, le tre televisive, sono la pubblicità. Vabbè Giulio, ma adesso di che parliamo? Qual è il succo del ragionamento? Benissimo, allora diciamo così. Il ragionamento è che lui non si può dimettere. Perché altrimenti teme per la sua roba. Questo è il punto. Teme per la sua incolumità, a mio avviso. Scusi, perché per la sua incolumità? Mi spieghi, per la sua roba posso capire, ma per la sua incolumità non capisco. Perché? Perché lì non è, cioè Mediaset è, ho capito, ma se si dimette teme per la sua incolumità, non ho capito questo passaggio, me lo spieghi? Secondo la sua idea, cioè... Perché a mio avviso ci sono dei finanziamenti che arrivano illecitamente da più parti. Sì, questo lei lo dice tranquillamente, finanziamenti che arrivano illecitamente da più parti, e dunque? Che sono praticamente, sono partiti? È partita con questi, diciamo. Ma scusa, allora può temere anche adesso? Per la sua incolumità, perché dovrebbe temere solamente? A mio avviso attualmente no. È una follia totale, sono subentrate delle problematiche. Sì. Ma lei dove l'ha letta? Da che cosa questa cosa qui? Dove si informa lei? Ma io mi informo leggendo i giornali. Leggendo i giornali, benissimo. Dunque, Silvio deve temere per la sua incolumità. Benissimo. Giulio. Dove si trova esattamente a Roma? È partita. Zona Prati. Beh, quale chilo? Vado a prenderlo io, se mai. Sei vicino anche tu a Zona Prati? Sì, sono in Zona Prati, adesso vado molto anch'io sull'ambulanza e lo tiro ma subito. Ma poi vorrei dire che anche quello che diceva prima il signor Santo Vestace, l'onorevole Vestace. Ecco, si aggravi la situazione. In realtà non è neanche un grandissimo imprenditore, perché messo nelle sue stesse nella posizione in cui è stato messo all'inizio della sua carriera, cioè con dei finanziamenti, poi partì tutto con un grosso finanziamento che è preso a fondo perduto e riuscì a costruire quello che ha costruito, non solo, furono fatte delle leggi speciali per lui, quelle che sono state fatte negli ultimi 10 anni al minimo rispetto al fatto che lui ha avuto le frequenze radiotelevisive praticamente Ho capito, dopo tutta questa cosa qua, la conclusione... Qualsiasi imprenditore mediamente capace avrebbe costruito la stessa cosa, messo nelle stesse condizioni, questo voglio dire. Va bene Giulio, grazie. I grandi imprenditori sono Ferrero, sono altri, la Fiat all'inizio della dopo Fiat, che lei ha detto, dopo che lei ha detto, sì, ma dopo che lei ha detto questo, la conclusione qual è? L'applicazione concreta al quotidiano qual è? Al quotidiano è che a mio avviso non si dimetterà mai. Mai, benissimo. Mai. Grazie. Massimo da Catania, buonasera. Buonasera, signor Giuseppe. Dica. È un piacere poter parlare con lei. Vada al sodo, dica. Io voglio essere più semplice, non mi voglio perdere in questi discorsi così. Io mi chiedevo, visto che l'opposizione non riesce a far dimettere o a far cadere il signor Berlusconi, perché magari non provano a dimettersi loro? Beh, è difficile. Non ho capito, scusi, come si fa? Potrebbe essere un'idea questo. Si fa a far dimettere l'opposizione dato che non ha, diciamo, incarichi? Cioè, se io per esempio non sono, cioè io vedo questa situazione che loro non riescono a raggiungere un obiettivo che è quello di far dimettere Berlusconi, d'accordo? E questo sono d'accordo. Un attimo. Pannella? Sì. Ma sta facendo magari qualche sciopero della fame ora? No. Prendono qualche grande, sai che lui fa sempre i grandi satyagraha radicali. No, ma è un'icona di questo paese. Ho capito, ma abbiamo sbagliato, è un'icona, è un numero uno. Non abbiamo sbagliato. Ma perché bisognava fargli raccontare la storia di... Perché lui parte un po' da lontano, effettivamente, Cavour, eccetera. No, Cavour per fortuna non ci eravamo arrivati ancora, però. Però Rosy Bindi su Sky TG24. A stare nell'autosufficienza del Parlamento, non essendo più maggioranza nel Paese. Vabbè, sta parlando contro Berlusconi, mi sembra una cosa scontata. La signora Bianca Maria ci chiama da Vicenza. Sì, dica. Ecco, io pregavo di far parlare Pannella perché lo ritengo una persona, lo so che arriva fino a Cavour, ma a pochissime occasioni. Non viene mai chiamato. Ho capito, però gli intervistatori siamo noi, signora Bianca Maria. Cioè, sì, va benissimo D'Alema, Berlusconi, d'accordo? 99 no, però. Cioè, perché oggi insomma, poi uno si irrita perché viene interrotto. Ma voi avete che devo ragione, fare? Per carità. Ma io dicevo perché l'ho capita io che sono di destra. Che ha capito? Destra. Che ha capito? Ho capito così ieri, l'hanno spiegato i radicali bene. Allora, ieri i radicali non hanno votato e hanno preferito, avendo poco spazio sia alla radio che alla televisione, mettere in rilievo quello che per loro è un grosso problema, e cioè dire amnistia, amnistia. Ho capito, signora Bianca Maria, è così, come dice lei, ha ragione, solo che... Termino subito, in due secondi, perché anche se con i loro 6 voti non avrebbero raggiunto la vittoria... con l'opposizione non avrebbe raggiunto la vittoria. Stop, non questo qua. Va bene, grazie. Raffaele da Firenze, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera. Senta, io sono stato, diciamo, invogliato a chiamare quando ho sentito parlare di Pietro e di come stesse, diciamo, in qualche maniera aizzando le folle, no? E questo è una cosa un po' pericolosa. Io volevo fare un ragionamento su chi aizza le folle e chi cavalca invece questo malumore. Sicuramente Di Pietro è una persona che in qualche maniera, da politico consumato a questo punto si può dire, cavalca l'emozione del momento e cerca di mettere, noi diciamo a Firenze, mettere il cappello su quello che è il malumore delle persone, facendo la parte di colui che li rappresenta, anche se nessuno ce l'ha mandato di quelli arrabbiati. Quello che invece forse è da chiedersi è come mai la gente è arrabbiata e si torna a fare i soliti discorsi. Penso che non accettare la discussione di una legge proposta popolare non sia un buon modo di rendere... Guardi, non penso che la gente è arrabbiata, come dice lei. Non mandare in prigione, non mandare davanti al giudice delle persone sotto indagine non penso sia un modo di tenere tranquille le persone. Come non penso che per tenere tranquille le persone si possa accettare che i politici prendano quegli stipendi, quelle pensioni, quei benefit, mentre la gente lo attira dalla cinghia. Cioè, questa forse può sembrare retorica ai vostri orecchi, ma suona molto più retorico quello che dite voi, quello che in qualche maniera volete far passare voi come messaggio. Ma ecco, noi non vogliamo far passare nessun messaggio. No, le assicuro che da fuori sembra un'altra cosa. Va bene, le assicuro che da fuori sembra un'altra cosa. Lei sbaglia, qui non si vuole far passare nessun messaggio, e comunque io questo. Non siamo degli educatori. Cioè, no? Il malumore, io questo malumore. Il malumore. Gente, non so quante persone fra 20 e 30 anni conosce che non hanno possibilità di entrare in un posto di lavoro fisso. Io ma che posto di lavoro fisso? Lei riduce tutto a entrare in un posto di lavoro fisso? No, lei riduce tutto a questo. Allora il malumore ci dovrebbe essere sempre. Io vivo in una zona che è fuori città, abbiamo dei dipendenti, dei liberi professionisti, dall'idraulico all'impiegato come posso essere io, anche se insomma faccio parte dei programmatori, quindi faccio un po' sono un po' al lato, no? Però tutti hanno difficoltà, chi vende la macchina, chi salta la rata del condominio se non del mutuo, quindi in qualche misura la cosa è trasversale. Tutti più che altro hanno la certezza che non avranno i propri figli, non avranno accesso alla pensione come magari è stato possibile per i propri padri, no? Sì, e ma se fosse così non si capisce perché ci sono tutte queste resistenze, per esempio nell'aumentare l'età pensionabile, eccetera, eccetera, nella riforma delle pensioni. Grazie, Raffaele. Paure legittime, queste sono paure legittime. Ma che pubblicità. Siamo sempre qui, 800 24 00 24. Paolo da Roma, buonasera signor Paolo. Sì, buonasera, vorrei parlare con il nuovo Emilio Fede degli anni 2010. Eccomi qui, sono pronto Paolo. Che piacere. No, eccoci qui, via. Poi del resto lei difende a spada tratta il suo datore di lavoro. E quindi... quale sarebbe il mio datore di lavoro, scusi? Berlusconi, non lavora per Mediaset lei? Che cosa significa il mio datore di lavoro? A parte che non mi vergognerei affatto. Era una considerazione. Ma no, non è una considerazione Paolo, è un'ironia ridicola. Paolo. Beh, va bene. Una ridicola ironia. Ma questa è una sua opinione, per me è una considerazione, anche perché no, poi lei dice difende il suo datore di lavoro. Primo, non è mio datore di lavoro, sono un collaboratore di Mediaset, ma non mi vergognerei a essere dipendente di Mediaset, non mi vergognerei per nulla, se proprio le devo dire una cosa. Bravo, bravo. Primo. Dalla sua reazione non si direbbe. No, ma come non si direbbe? La mia reazione è una reazione tranquillissima. Lei fa ironia sul fatto, lei difende il suo datore di lavoro. Cioè, che è una cosa ridicola, Paolo, come se io non avessi idee autonome, o come se non ragionassi con la mia testa. È la sindrome Franceschini, che una volta disse, non so dove, a Ballarò, tu sei dipendente di Berlusconi, dunque le tue idee sono un po' bacate, sono un po' deviate, sono un po' condizionate. Comunque, no, va bene un sì. Se fosse un onore, ma no, un onore, non è un onore, non è questione di onore o non onore, è questione che lei deve smetterla di ragionare come se le persone non pensassero con la propria testa, capito? Ma io impari a rispettare le persone. Ma guardi, io non le voglio mancare di rispetto. Invece lei manca di rispetto, impari a rispettare le persone. Ma perché? Impari a rispettare le persone. E lei sa bene quello che dico. Lei sa bene quello che dico. Impari a rispettare le persone. Posso parlare? Dica. Se a me dicono che io difendo il mio datore di lavoro. Lei dice una stupidaggine. Lei dice una stupidaggine. E lo sa bene. È un onore. Lei lo sa bene che sta dicendo una stupidaggine e insiste rimanendo sul piano formale della sua frase. Quindi è molto grave. È chiaro quello che voleva dire, l'hanno capito tutti, dunque non si tiri indietro adesso. No, io e cerchi di pensare alle persone. Cerchi di pensare alle persone in un altro modo, per quello che dicono e non per altre cose, ha capito? Ma guardi, l'affermazione che io ho fatto è esattamente per quello che lei dice. Quindi io giudico, se mi posso permettere, poi no, non è lei un deve giudicare mio, quello che dico, giudizio. Non chi mi paga o chi non mi paga nel mio lavoro, ha capito però o no? Però guardi, siccome è un mio pensiero, ecco, è il suo pensiero, è benissimo, io lo combatto. Io combatto finora, questo conformismo, combatto l'etichettatura, ha capito o no? Anzi, so che diciamo così, non so se nelle reti Mediaset esiste, ma siccome c'è libertà di parola e lei me lo sta dimostrando perché mi sta dando parola. Ma io non capisco di che sta parlando. Io l'ho espresso. Sì, ma lei l'ha espresso e ha detto una stupidaggine, perché deve imparare a considerare le persone per quello che dicono, non perché sono dipendenti di questo o dipendenti di un altro, ha capito o no? È un giudizio che io recepisco. Punto. Benissimo. Vabbè, ma non capisco quello che vuole dire lei, cioè sta cercando non di... Non capisce, secondo me capisce, però comunque... No, ma non ho capito nulla. Resti lì perché abbiamo il traffico, ma non se ne vada, se vuole, non se ne vada. Con tanti galli che cantano, troppe galline rispondono, e se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono. Ed eccoci qui con la zanzara, abbiamo un ospite pronto, un ospite speciale, non te l'ho detto caro Parenzo, non te l'ho detto. Chi mi hai invitato stavolta? Aspetta, devo finire con l'ascoltatore. Comunque ti sento in grande forma stasera, nonostante il viaggio. No, sto combattendo, il nostro ospite, rimango un attimo, 30 secondi. Paolo, allora, qual è il problema? Sì, io volevo intervenire per quanto riguarda il discorso, forse sarò magari ripetitivo, non so, io comunque... Qual è il discorso? Esprimo, non ho capito. Il discorso delle escort, perché vedo che lei si arrabbia molto quando qualcuno dice che, come ovviamente tutto il mondo pensa, tranne lei, che Berlusconi sapesse che le escort erano prostitute, appunto. Lei deve distinguere tra due una prostituta. No, lei deve distinguere tra due piani. Io non dico affatto quello che pensa lei, quello che lei ha appena detto. Io dico solo una cosa: primo, chi le dà il diritto di bollare come escort delle persone? Prima cosa. Seconda cosa, io sono certamente penso che Berlusconi paghi sapendo di pagare, cioè non è che non crede che le persone vadano a casa sua, come dire, perché è evidente. No, questo è talmente chiaro che è così, ma rifiuto l'etichetta di escort per ogni persona e per ogni ragazza che va a casa di Berlusconi. In generale rifiuto l'etichetta di escort, cioè non è che uno è escort tutta la vita, ci sono dei periodi in cui delle persone, delle ragazze che fanno anche spettacolo vendono il proprio corpo, non è che sono escort a vita. Ma è escort a vita o a minuti, questa distinzione io non la percepisco, perché se è escort per una serata è differente rispetto a escort per due, tre o quattro serate, qual è il limite? Ma no, ma che una... c'è? Entra, mezz'ora, un'ora, un anno, qual è sì, il ma la è un escort. Vabbè, è un escort. Che è l'equivalente della prostituta. Bene, Paolo, grazie. Io non difendo nessuno, poi non me ne frega niente di difendere nessuno. È con noi Rocco Siffredi, buonasera. No. buonasera. Come stai? Ho questa Ford Escort. Come fa questa Ford? Sai, in Italia si parla solo di escort con la politica, è una cosa pazzesca. Senti, facciamo gli auguri al presidente, che oggi è il suo compleanno. Vuoi fare gli auguri al presidente? Tantissimi auguri, no, per me, io lo stimo molto, quindi apertamente, senza nessun tipo di per me tantissimi auguri e spero di arrivare a 75 anni come lui, in forma così. Forma smagliante, dice, Iper smagliante. Ma tu ci credi a tutte le cose? Ci credi a tutte le cose che leggi? Ma quanti anni? Io personalmente devo dire che sono nel frattempo, sono mesi ormai che ho avanti questa storia e sto rimanendo sempre più sorpreso da questa pazzesca situazione. Cioè, mi dico, ma cazzo, neanche io ho bisogno di tutte queste donne, ma che lo faccio da una mattina alla sera, ok, però è anche poi una situazione che a cui ci si lega, è come uno sportivo, no? Più lo fai più hai voglia di farlo. Allora credo che veramente lui lo faccia realmente adesso a 75 anni fare delle performance molto importanti, magari no, ma il fatto di giocare, di divertirsi, di amare la vita, credo che veramente gli è rimasto fino alla fine. Io credo che lui abbia messo la donna al primo posto, prima di ogni altra cosa, probabilmente anche prima della politica, forse. Ma questo non c'è dubbio. Forse. Questo è sicuro. E come amante di tutto ciò, ci si sveglia la mattina e ci si va a dormire la sera, perché è impossibile avere tutto quest'arem dietro senza farci nulla. C'è una fissazione che tu conosci bene, proprio una fissazione. Io conosco molto bene, per quello dico, secondo me, poi alla fine è una, sai quando uno è drug addict, quindi sei addicted da questa cosa qui che però alla fine è molto salutare. Dici che è salutare? Beh, insomma, però allora tutte le esagerazioni magari no, però io preferisco quello alla droga, quello all'alcol, quello a tutto quello che ti pare, cioè non vai mai in overdose di figa. Ma posso ragazzi, chiedere al dottor Siffredi? Professore? Che vuoi chiedere al professor Siffredi? No, per me è un'autorità, cioè un'autorità morale di questo paese, signor Siffredi, per me. Comunque, ma anche per me, andrebbe candidato con i radicali, cioè è un uomo storico. Andrebbe fatto senatore a vita, Siffredi senatore a vita subito, immediatamente. No, ma lo dico su serio, intanto lei ha fatto della sua vita un lavoro davvero usurante. Molto, mi sono operato. Dovrebbe chiedere la pensione subito. I medici Marocco, che ma dico... è andato dal sindacato, diceva la signora Camus, dica signora Camus, io sono il signor Siffredi, ho fatto un lavoro usurante nella mia vita. Ma guarda, ognuno lo fa a modo suo, io mi ritengo alla fine un operaio del sesso, eh. Ecco, appunto, questo volevo capire, lei in modo, perché lei fa sesso in modo fordista, come la catena di montaggio, lei a quanto è arrivato, diciamo, in una giornata? Ma però le dico la verità, io ho ricominciato a fare l'attore solo 2 anni fa, 47 anni, perché mi ero fermato un periodo. Pensavo di aver smesso col vizio, col vizietto, però invece... poi alla fine mi sono reso conto che era meglio continuare che vivere male, un po' come il nostro presidente. E ti assicuro che personalmente più lo fai non senti più, diciamo che il recupero è quello un po' più difficile, però le 4-5 ore lei? Che durano le mie scene, ma non è autopromozione o auto... No, è la verità, sul set ci vuole molto più tempo di quello che realmente poi si vede. Senti Rocco, quante volte? Adesso dipende dal giorno, dalla giornata. Quante volte si va? Io sono sempre stato 2 times by day, 2, oltre poi diventa veramente usurante, veramente 2? Non divertente. Poi io sono uno che a me piace dare tantissimo. Sì. Vedere le persone, veramente avere piacere, sono così, non riesco ad averlo se non vedo le persone che si divertono, e quindi operaio sì, ma sempre al servizio della donna. Senti Rocco, ma il presidente, dico il presidente, no? Sì. E dicono, vabbè, adesso ce n'erano 11 davanti, me ne sono fatte 8, però diciamo la verità, a quell'età senza qualche aiutino non si va da nessuna parte. No, allora, l'aiutino io adesso non voglio esprimere, perché uno può anche pensare, però con la mia vita, con la mia esperienza, ti assicuro che a 75 anni lui senza l'aiutino non fa nulla, ma non è solo quello, ho degli amici che hanno la sua età veramente anche 5-6 anni di più, che magari riescono un attimino, ma lui sento dei numeri 8-10 donne insieme, quindi secondo me lui è veramente un amante della donna, quindi magari da una toccatina una leccatina un'altra, una penetratina un'altra, e così lui è come, guardi, racconto una storia di un russo di questi ricchissimi, mezzi strani, non si capiva se era un mafioso o no, però io ero a San Pietroburgo adesso, un mese fa, è arrivato, ha saputo che ero nell'hotel, mi ha invitato a questa cena dove lui era attorniato da 30 donne, perché un po' gli piace, no, apparire così a certe persone, e poi mi invita a partecipare a questo after party, e lui continuava, diceva io me ne faccio 30, me ne faccio 50, io dicevo ma lì mostraci, questo è veramente forte, poi passavano tutte solamente di bocca, e dico ma così ne faccio 2000 al giorno io, cioè, non è valido, non vale così, così dice, non piedi non vale, ecco, quindi voglio dire, può darsi il presidente si diverta a giocare, certo, non c'è dubbio su questo, io sono un operaio vero, perché a me se non vado su e giù non mi pagano, quindi non c'è dubbio, sono le 8:26 ed è sempre la radio, non vado su e giù, che vuol dire, sono le 8:26 ed è sempre la radio del Sole 24 ore. Allora voglio chiedere a Rocco Siffredi una cosa, ma al professor Scusami, hai ragione. Hai la mania di chiamare onorevoli persone che siedono in questo Parlamento, e non che la signora Stall l'hai chiamata signora quando è un ex deputato, quindi merita di onorevole, e Siffredi è un professore, è un'autorità morale di questo paese. Adesso morale adesso non esagero. Autorità non c'è dubbio, però morale adesso non esagero. Nel morale. Suo campo ha un'autorevolezza assoluta, assolutamente. Guarda, io adesso non so come intendete voi il morale, però io sono estremamente passionale, autentico, e mi piace ma lo so. Questa è la vera realtà. Poi. No, ma noi giochiamo anche sulle parole. Però voglio chiedere, lei ha mai incontrato Berlusconi? Oggi devo dire la verità, dopo tutto quello che vedo e vivo di rimbalzo, è la persona che più veramente voglio incontrare. Addirittura spero, ma non è, adesso sembra una cazzata, però mi piacerebbe anche partecipare a uno dei suoi party. Non per invidia, per capire un po' veramente se riusciamo nel futuro a fare qualcosa insieme, quando ha smesso di fare politica, magari. Sai, lui è uno che ama la vita, tutto è possibile. Allora, attenzione, qui c'è una cosa importante. Cioè, Rocco Siffredi, che è produttore conosciutissimo, soprattutto all'estero, ma anche in Italia, naturalmente, casa di produzione da tanti anni, dice che cosa? Dice, caro Berlusconi, io... ma lo dico proprio, magari, guarda, c'è sul titolo, attenti a quei due, magari la strana coppia, che ne so, ma di tutto di più, ma con lui mi piacerebbe. Capito? Offerta... Ma fare cosa? Non ho capito. Beh, un film, come no? Un film insieme, io e il presidente, ma che sarebbe il massimo. Sarebbe il massimo. Beh, dunque... Rocco e il Cavaliere sarebbe un gran titolo. Rocco e il Cavaliere. Number one, ma veramente, adesso a parte i scherzi, vero? Sì. Vero? Cioè, sarebbe un sogno, perché io poi c'è una storia, io sto per uscire in un film che si chiama Teens vs Mamas, io sono in mezzo con delle signore di un 60-70 anni che mi tirano, mi strappano la maglia, dall'altro lato delle 18-19-20 anni che mi strappano la maglia, quindi secondo me nel sesso non c'è età, e il nostro Cavaliere lo rappresenta molto bene, e a me piace questo, mi piace che una persona viva fino all'ultimo giorno della sua vita, come si deve, quindi lo stimo. Quindi offerta formale, vieni a fare un film con me, sono pronto quando vuoi, naturalmente quando si dimette. Perché soprattutto lui, non credo che lui verrà mai per un discorso economico, ma presidente, gli viene un'idea, io sono disponibile, faccio il film più bello che uno può immaginare. Allora, abbiamo la pubblicità, poi torniamo altri 5 minuti con Rocco Siffredi, che Parenzo propone come senatore a vita, cosa che mi sembra piuttosto complicata, però se Cicciolini è andato in Parlamento, anche Siffredi può fare il senatore a vita, non c'è dubbio. No. Bisogna pescare il mondo delle professioni. Bisogna pescare il mondo delle professioni. Pubblicità e bozze. Con tanti galli che cantano. Troppe galline rispondono. Co, co, co, co, co, co. E se i piccioni spariscono. Co, co, co, co. Tutte le papere piangono. Bene. 800 24 00 24. Direi che Come lasciare Rocco Siffredi, uno dei miti del nostro tempo, della nostra gioventù, ma forse anche della nostra, forse anche della nostra vecchiaia, anzi certamente anche della nostra vecchiaia, come lasciarlo? Direi con una carrellata di personaggi politici che lo stuzzicherebbero per un film. Però posso dire una cosa solo? Dimmi la verità, perché hai detto della nostra vecchiaia? Perché ti ho parlato delle teenager di 70 anni? No, perché magari anche tra 20 anni spero di poter vedere ancora i tuoi film, che ti devo dire? Il mio problema è che tra 20 anni vedrai i miei film d'attualità, cioè con me dentro, quello è il mio problema, se no la smetto. Farò peggio del presidente. Perché senti, ma come si guarisce dalla come dire, da questa malattia? Dai un consiglio a Berlusconi. Io non ci ho capito nulla, non lo so, continuo a peggiorare, quindi dovrei parlare col presidente e cercare di capire un po' come bisogna fare, ma mi sa che neanche lui l'ha capito, quindi... Appunto, cioè non vuoi dare un consiglio a Berlusconi per guarire dalla... No, io l'unico consiglio, guarda, ti dico la verità, sì, pura verità, questo è dal profondo del cuore, Berlusconi è stato purtroppo devo dire un peccato, così la moglie l'ha mollato, se la moglie non lo mollava Berlusconi non sarebbe mai sceso, tra virgolette, così giù. Lei dice, Sì, io sono strasicuro, perché io ho la grande fortuna, non di avere un uccello grande, non di aver trombato 3.000 donne, ma di avere una donna a fianco che ti veramente mi capisce, diciamo, mi dà voglia di andare avanti, ma credimi, non gli manco mai di rispetto. Ho capito, ma tua moglie come ha preso? Cioè, perché sa tutto, è chiaro. Ma perché c'è una trasparenza e c'è un gran rispetto, io rispetto lei, non li faccio mai, e sa lei qual è il mio vizietto, quindi non è che giochiamo a far finta o a fare l'ipocrita. Dunque Berlusconi doveva confessare, sarebbe stato meglio... La moglie lo sa, non c'è niente da confessare, la moglie sapeva, la moglie a un certo punto ha voluto sputtanarlo e basta. Senti Rocco, a quel punto secondo me amava molto la moglie, vuoi sapere il mio punto di vista? Dici? Berlusconi amava ed ama ancora sua moglie, e la reazione a tutto ciò è quello di dire viviamo come dobbiamo vivere, ma secondo te uno che c'ha tutti quei soldi, che poi è l'unico al mondo che io conosco a cui piace tanto la passera e si è fatto tanti soldi, perché di solito non vanno insieme, quando uno gli piace tanto la passera i soldi non se li fa, perché li butta tutti, cioè il cervello ti sta sempre lì su, quindi credimi, io credo che lui ama ancora molto la moglie, ci è rimasto tanto. Senti Rocco, ma facciamo una carta. Volevo solo capire questo, perché poi sì, della lista dei politici. Io però non ho un grande ricordo delle storie, i film, cioè non mi rimangono impresse i plot, no, gli intrecci. No, ma non è vero, non è vero. Ti sbagli. Le storie sono sempre importanti. Anche un bacio per poi iniziare a far sesso. Bisogna far capire, almeno nei miei film ci provo sempre, io non riesco mai a filmare delle persone che non mi trasmettono qualcosa, certamente non sono emozioni, lì bisogna andare al cinema, ma sensazioni sì, e credimi... No, le storie ci sono sempre, ma non entriamo in queste cose. Senti Rocco, ma voglio chiederti una cosa, ma... La filmografia. La filmografia è eccezionale, ma una cosa è questa, per esempio una persona come la signora Minetti, cosa ti ispira, qualcosa o no? Lo sapevo io. Zero. Zero? Zero, sì, perché a me poi, ti dico la verità, mi piacciono le persone che comunque si sudano la propria carriera, da quel lato poi mi trovi completamente un po' all'opposto. Cioè la Minetti, per esempio, nemmeno per un film, non ti ispira nulla? Cioè, voglio dirti, a me personalmente sì, forse ecco, fare quello che era il suo ruolo all'interno nei film va benissimo. Cioè che ruolo faresti fare? Ma lo sai cosa? Io prima ho iniziato sentendo un po' la discussione dell'escort, la parte finale, sì, no? Ascoltato prima. Il problema è che io ho fatto un'intervista ultimamente in cui ho fatto incazzare la giornalista, per la quale lei mi chiede, ma Rocco, Che era le Iene? No, la giornalista deve ancora uscire l'articolo. Sì. E mi fa, la rivista, e mi fa, Rocco, ma secondo te qual è questa situazione oggi, perché sembra quasi una moda che escort, tutte fanno, cioè è diventato quasi un, e devo dire la verità, purtroppo anche tu, con tutti questi casini, tutte queste storie, si sta un po' normalizzando tutto quello che è il passaggio veloce, la carriera veloce, senza farsi il culo, tra virgolette, senza fare gavetta, e questo non è bello, non è un bel messaggio, ragazzi. Adesso voglio dire, tra virgolette sta parlando forse la persona meno adatta, ma io il culo me lo sono fatto. Vabbè, nel tuo campo un sì. Un gioco di parole che tanti possono anche tradurre, lo hai fatto, va bene, però però credimi, a me cioè, tutte queste persone a casa che vedono questo non è bello, ma allo stesso tempo la signora si è incazzata, lo sai perché? Perché? Perché io ho detto, purtroppo il mondo sta cambiando, stanno diventando sempre di più le persone che si abituano a questa normalità, e lei mi ha detto, tu vorresti dire che adesso tutte le donne sono diventate mignotte? Ho detto, allora chiamiamole così, tutte le donne hanno un prezzo, questo è quello che sto notando io, perché chi per i soldi, chi per un posticino più in alto, chi per arrivare da una parte o dall'altra, cazzo, ma alla fine trovare quella che non te la dà è difficile, quindi voglio dire, forse non tutte perché è un po' troppo, però ci siamo molto allontanati. Senti Rocco, ma allora insomma, Minetti non ti ispira per niente? No, manco un po'. Niente un po', ma nella... lasciamo perdere le ragazze e le donne di Berlusconi, ma nell'opposizione chi c'è che ti ispira un po'? Ma appunto... dai, l'ho anche detto, la Conchita, che c'è? La Conchita, in un'intervista al Libero. Ma sì, perché lei è tosta, mi sembra una con i coglioni, poi non sono molto d'accordo col suo pensiero. La Conchita De Gregorio, come faresti come fare? Donna, così, come donna è molto... mi piace questa forza, questa... Che le faresti fare? Può essere peperino. Che le faresti fare? Protagonista addirittura? Mossa, ma guarda, one to one per tutto il film. One to one, tu e io e Conchita. Sì, tutto il film. E magari Berlusconi che viene alla fine a dargli due botte anche lui sarebbe il massimo. Ma che cosa pazzesca. Un'immagine agghiacciante. Allora. No, non è agghiacciante, perché secondo me il presidente lì sopra non fa distinzione di destra e di sinistra. Ah, su quello non c'è dubbio. Su quello non c'è. Molla tutti, quindi per quello primo. Col sesso non bisogna parlare di politica. Infatti io punto sempre al centro, vedi? O davanti o dietro, centrale. Adesso professore. Senti Rocco, ma altre persone che ti ispirano dal punto di vista così di un possibile film a sinistra, chi c'è? Ma no, vabbè, ma devo dire, ma io non sono molto, adesso sembra, però non seguo molto la politica, i personaggi che fanno politica. Vabbè, quelli che vedi in televisione. Quelli della televisione si sentono molto per il discorso soprattutto legato ai scandali, forse purtroppo grazie al presidente più quelli di destra si sentono legati. Ma nel governo c'è qualche ministro del governo, donna, che ti attira particolarmente? Oppure... Rosy Bindi non mi sembra proprio il massimo della vita da portare su un set, però che... visto che l'hai detto prima tu, l'opposizione operaia, la Musso, come si chiama? La Camusso. Ti dicevo, la Camusso è per me, per dire, il personaggio più... anti, se vogliamo, no? Troppo mascolino, senza mai una goccia di trucco, un pelino troppo hard. Troppo hard. Ecco, quei personaggi di sinistra così troppo duri, si salva, la signora Camusso si salva. Anche io dico, ma non credo solo io, anche il presidente. Non ce la faresti tu? No, non ce la faresti. Ma invece la signora Carfagna, sì, vabbè, è scontato. Vabbè, lei diciamo che è scontato. Come hai capito, servire il piatto di caviale, champagne, facile, number one. Lei è una modella, manco è sprecata per un film hard. Sì, anche facilissimo. Vabbè, a destra niente, per cui troppo... Vabbè, ce ne sono tante, c'è la... aspetta, come si chiama quella bionda molto? Vabbè, Berlusconi è ben attorniato, è tutte quante che diciamo che quella che mi ha sempre dato l'aria, che mi ha fatto sesso, anche se fa finta di essere molto, è la Brambilla. La Brambilla? Perché c'ha sto look red, capelli lunghi. Quella red, ti fa impazzire un po'. La pelle bianca, rossa, poi rossa, sai... La pelle rossa, gli odori, si sa cosa scatena. E che ne so, io sono uno che poi utilizza tutti i sensi. Oddio. Vabbè, e sempre che Parenzo, ci sei ancora tu? Sei sopravvissuto? Devo salutare dopo questa dotta disquisizione. Sì, ci devi salutare. Noi salutiamo anche Rocco. Cena di lavoro. Dove si trova, professor Siffredi? Dove si trova? Io sono a Budapest, rientrato dalla Russia. Abbiamo appena finito un film di vampiri qui. Sì, vampiri per modo di dire. Sì, vampiri, capito, vampiri. Però il nostro cinema purtroppo visto che non abbiamo questi budget che gli toccava succhiare di notte e trombare di giorno, quindi altre 24 ore. La roba da pazzi. No, chiedo scusa, qual è la storia di questi vampiri? Qual è la storia? È molto carina, c'è una storia molto bella, però è un vampiro, non è come Twilight, è qualcosa di un po' più estremo, quindi sono vampiri americani che invadono l'Europa e praticamente io sono quello che insomma cerca di redimere, anche non so, faccio un po' il prete della storia. Vabbè, senti, per chiudere, sembra che Berlusconi sia fidanzato con una ventenne ex Miss Montenegro, ha letto da qualche parte? Sì, non l'ho letto, ma oramai non mi sorprende più nulla e continuo a dire... Forse è l'unica persona che invidio, a 75 anni voglio essere come lui. Ciao, a presto, a presto. 20:46 traffico. Eccoci qui, 800 24 00 24. Siamo con Loris da Monza. Buonasera, signor Loris. Buonasera Cruciari, buonasera Parenzo. Allora, praticamente sono solo tre cose velocissime. Sì. La prima è chiedere a Parenzo di candidarsi, perché avrebbe un voto. La seconda cosa è per lei, Cruciani. Devo tirare le orecchie su due cose in particolare. Vada. La prima è il fatto di aver fatto scappare Pannella, perché anche se è vero che comunque il 1999 è lontano, eccetera, determinati personaggi ce li troviamo ancora in mezzo ai piedi. Sì, ho capito, Loris, ma le ripeto ancora una volta. Va benissimo, solo che noi non abbiamo 40 minuti come a Radio Radicale, 50 minuti, un'ora. Abbiamo una trasmissione in cui bisogna sintetizzare. Se uno interrompe Pannella, lui si irrita, ma io non lo volevo far irritare. Volevo che dicesse la sua sull'amnistia, sui rapporti col Partito Democratico. Ma se uno io l'ho fatto anche parlare, gli ho fatto ricostruire la vicenda dell'alleanza con il Partito Democratico, eccetera eccetera, dopodiché poi a un certo punto le ricostruzioni finiscono lì, non è che si può tornare poi al 99, D'Alema, Berlusconi, perché altrimenti non la finiamo. No, per l'amor di Dio, però un attimino capire anche che determinate persone hanno avuto una determinata vita e quindi diciamo che hanno bisogno di determinate attenzioni e quindi anche un determinato garbo nel ma non c'è garbo con Pannella. Non è che funziona il garbo, a parte questo, una cosa che non avevo capito è il motivo per il quale i radicali ieri appunto hanno tra virgolette appoggiato, per così dire, la visione del PDL, nel senso che io non ho capito se era un lanciare un messaggio forte per la loro, diciamo, per appunto questa necessità di amnistia che loro dichiarano, oppure se era l'interpretazione di un pensiero garantista e quindi dire noi da radicali, da liberali. Beh, è proprio quello che volevo chiedere a Pannella, cioè dire se gli importava della vicenda di Romano oppure era semplicemente per far passare meglio il messaggio sull'amnistia. Ma che vuole fare? Voleva parlare di D'Alema e di Berlusconi a un certo punto. Loris, grazie. Francesco da Foggia. Sì, buonasera, salve. Innanzitutto complimenti per la trasmissione e poi volevo cogliere l'occasione per fare anche gli auguri al Presidente del Consiglio. Parte vabbè, questo, Francesco, però adesso abbia pazienza. Sì, sì. No, volevo dirle, si contenga, ho ascoltato ho ascoltato prima i vari commenti e sentivo... un attimo solo. Mo grazie, sei stato proprio carino a ricordartelo. E come potevo dimenticarmi il compleanno del mio migliore amico? Erano gli sgommati su Sky, Francesco. E infatti, va bene, niente, le volevo dire, ascoltando anche prima i vari commenti, il dato che insomma emerge a mio parere è che purtroppo oggi in Italia non si fa più politica. O si è contro Berlusconi etichettando anche le persone, diciamo, che sono attorno a lui, etichettandole come escort e sostenendo che il Presidente del Consiglio fa una vita insomma non è ricca di valori e lo fa anche in maniera scorretta. Vabbè, allora? Oppure, e quindi volevo appunto dirle che secondo me la vera alternativa politica a Berlusconi non esiste. Vedo più che altro una sinistra che cerca in tutti i modi di non creare un'alternativa politica come dovrebbe essere appunto in politica, ma cerca più che altro di sconfiggere e di accusare ingiustamente, etichettando, le ripeto, il Presidente del Consiglio, proprio per... Va bene, Francesco, diciamo che spesso si fa male da solo anche Berlusconi, eh. Ma io credo che però prima di esprimere giudizi su di una persona bisognerebbe prima guardare quelle che sono le situazioni, si dice qui a Foggia, a casa propria. Io dice, vedo che nella sinistra principi di idee di ricche di valori non ce ne siano. Vedo va bene che Francesco, altro... grazie. Nadia, provincia di Roma, buonasera. Buonasera, finalmente posso parlare, tutti quei bei moralisti, i nostri cari sinistroidi. Ma io dico, come si permettono di parlare in quel modo? Io vorrei vedere loro cosa farebbero davanti a delle donne. Ma che c'entra, Nadia? Non saranno neanche perseguitati come sarà perseguitata una persona, o no? Ma... non staranno mai ad ascoltare tutto quello che faranno, non interesserà nessuno? No, ma non è questione di moralismo. Io vorrei dire soltanto questo, ma perché si parla soltanto di questo quando ci sono tante cose da parlare? No, si parla di questo e si parla di altro. Questo. Ma non si parla solo di questo, vero, guardi. Non si parla solo di questo. Comunque di io le dico una cosa, le dico una cosa che le farà su cui potrà essere d'accordo. Personalmente, di fronte alla domanda cosa ti fa più orrore, i comportamenti di Berlusconi come vengono fuori dalle intercettazioni oppure i metodi utilizzati per incastrare Berlusconi? Mi fa più orrore il metodo utilizzato per incastrare Berlusconi, cioè dire il metodo di intercettazioni, inchieste che nascono in teoria come quella su Tarantini per un reato contro Berlusconi ma che in realtà poi si trasformano in un modo per spiattellare le intercettazioni sui giornali, eccetera, eccetera. Giancarlo da Bologna, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Grazie per l'opportunità. Io sono anni che ascolto la vostra trasmissione perché rientro verso casa in genere sì, a quest'ora. Sì, sì. E io devo dirle che non apprezzo poco, ecco, diciamo, il suo modo di condurre. Sì. Perché guardi, l'impressione che un ascoltatore come me, che vado al di là di quelli che sono i meriti del contenuto, ha questa impressione che chi la chiama la infastidisca. Ha un atteggiamento sempre molto aggressivo. Ma io sono infastidito dal suo intervento, Giancarlo, non mi sembra. Lei sta parlando tranquillamente. A mio avviso lo dovrebbe accettare. Ma io lo sto accettando, per cui dov'è l'aggressione? Scusi. Domani aumenta la sua audience o meno? Perché io spesso cambio stazione quando l'ascolto, perché mi infastidisco. Succede anche che si torna poi ad ascoltare. Giancarlo, sì, ci torno perché spero sempre in contenuti intelligenti. Succede il suo modo di condurre la trasmissione. Ma non è il mio modo, io sono fatto così, se lei lo accetta bene, altrimenti... No, ma infatti io il mio messaggio, visto che è la mia unica possibilità... Ma non è un messaggio questo qua, è una sua idea, che messaggio vuole fare? Che è il Presidente della Repubblica, lei che messaggio vuole fare? Se no posso spegnere il canale, ma mi dispiace. Ma che messaggio è? Sono spessissimo in auto. A chi lo vuole dare il messaggio? Scusi, a chi lo vuole lanciare questo messaggio? A chi probabilmente ha il potere di dire... Ma il potere di dire cosa? Il potere... Ma secondo... forma di condurre. Ma secondo lei io perché sto qua? Ma secondo lei io perché sto qua, Giancarlo? Secondo lei si faccia mente locale, perché sto qua secondo lei? Secondo lei? Faccia mente locale un attimo. Io tutti che abbia deciso che lei sia il numero uno. Ma lei pensa qualcuno, ci sarà stata una selezione e piacerà a qualcuno. A me piaceva mille volte di più Forbice. Forbice non è mai stato a Radio 24, caro Giancarlo. Se vuole cambi su Radio 1. Grazie. Massimo da Frosinone, buonasera. Buonasera. Dobbiamo chiudere. Due persone da Frosinone, Massimo e Michele. Li rimandiamo a domani 18:30 alla Zanzara. Ciao. Cruciale vaffanculo, non sei cruciale. La patonza deve girare. Radio 24. La passione si sente.